mai fior con questo volto. Poverdo il mio, poverdo, poverdo. Bianco vestita e qualche allaro in norte adempie il rito e va cantando il giuro, poi grida per amor tutto tremante. O vieni Arturo, o vieni Artur, se me sarò or qual tortor amorosa, or cade finta da mortal sudor, or lodi al suol de arpa verdoso, cantar d'amor.